Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Parliamo ancora oggi di scuola, di università. Come avete sentito dai GR, nel fine settimana sono previste nuove proteste, anche se l'università si continua a discutere, si continua anche a dibattere nel merito dei provvedimenti del ministro Gelmini, si continua a discutere sul futuro dell'università. Oggi ne parliamo con il professor Salvatore Settis. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Salvatore Settis è direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa e ha scritto oggi sul Sole 24 Ore un articolo dal titolo Un sistema da svecchiare. Un sistema da svecchiare è proprio quello dell'università. Questo articolo parte dal fatto che la classe dirigente dell'università italiana, i docenti, sono i più vecchi del mondo. Gli ultra sessantenni sono il 25% contro il 5% degli Stati Uniti, l'8% della Gran Bretagna e il 13% della Francia, mentre quelli sotto i 35 anni sono meno dell'1% in Italia. Ecco, quindi, professor Settis, una prima analisi è quella che l'università italiana è da svecchiare, poi magari vediamo se i provvedimenti vanno nella giusta prospettiva, però è un'università troppo statica, troppo forse concentrata più sui professori che sugli allievi. Professor Settis. Ma dunque, che l'università italiana sia da svecchiare, da riformare profondamente, non c'è dubbio. Bisogna domandarsi anche le ragioni per cui questo invecchiamento è avvenuto. Non è un fatto naturale, è talmente strano, talmente diverso da quello che è successo in paesi come gli Stati Uniti, ma anche in paesi a noi molto più simili come la Francia, che bisogna domandarsi come mai noi siamo arrivati a questo. E la risposta è molto semplice, ci siamo arrivati, e nell'articolo di oggi su Sole 24 Ore do qualche elemento e un grafico, credo, parlante, ci siamo arrivati mediante una serie di alternanza fra momenti di blocco delle assunzioni e momenti di assunzioni frenetiche, spesso ad personam, cioè senza una vera considerazione del merito. Si è così creata quella che Silo Slabini e Zapperi qualche anno fa hanno chiamato l'onda anomala, lo tsunami dell'università italiana, per cui ora abbiamo questa punta di ultra sessantenni che ormai sono ultra 65 anni, sempre di più, e a cui non corrisponde una classe di età più giovane che possa assicurare il ricambio, quindi è urgentissimo provvedere in questo senso. Ecco, in questa prospettiva per l'università lei dice ci vorrebbero più soldi, non meno soldi, quindi più soldi però finalizzati a un ricambio dei professori e soprattutto a immettere nei ruoli dei giovani ricercatori, ma in questo senso i meccanismi di selezione dell'università, i meccanismi attuali sono validi? I meccanismi concorsuali attuali non sono validi perché sono molto sono organizzati in modo che il candidato locale in una percentuale che certamente è superiore al 90% dei casi, il candidato locale vince sempre e comunque. Si vede che nella maggior parte delle università italiane il numero delle persone che vengono dalla stessa università è esorbitantemente superiore al numero di quelli che arrivano da fuori. E anche questo è un fenomeno molto singolare, senza paralleli con gli altri paesi d'Europa. Questo localismo esasperato è evidentemente si accoppia a un meccanismo di promozione per anzianità piuttosto che per merito. E con questo accoppiata, prima l'anzianità, poi il merito, prima i locali, poi gli altri, l'università italiana si è proiettata fuori del mondo. Io in questo articolo dico che c'è un asteroide Italia che naviga nello spazio, lontano dal pianeta Terra. Ecco, in questa prospettiva abbiamo parlato appunto di questi decreti. Qualcosa si muove nella giusta direzione nel dare più fondi all'università virtuose e meno fondi all'università che sono troppo provinciali, possiamo dirlo? Ecco, la novità del decreto Gelmini, che innova rispetto alla legge 133, è che c'è una prima idea di distinguere fra le università virtuose e quelle che non lo sono. Questo è sicuramente nella giusta direzione, anzi c'è qualcosa di più, c'è anche un'importante decisione di andare verso una crescita nel premiare le università virtuose, perché già dal prossimo anno dovrebbe esserci il 7% del fondo complessivo per le università, cioè si parla di 500 milioni di euro che dovrebbero essere destinati alle università più virtuose. Questo fondo del 7% sarebbe destinato a crescere nel corso degli anni, ma attenzione, a crescere il fondo per le università virtuose cresce mentre il fondo complessivo diminuisce, quindi questa crescita insieme a una diminuzione crea un meccanismo che è difficilissimo da controllare, perché poi voglio vedere come faranno a licenziare centinaia o migliaia di persone, visto che come è noto la maggior parte dei fondi anche delle università meno virtuose sono spese per pagare il personale che non è licenziabile. Grazie, forse in questa prospettiva vuole intervenire Dario da Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per lo spazio. Io semplicemente sono rimasto colpito dalle statistiche, nel senso che sentivo dire che il 25% dei docenti ha oltre 60 anni. Io ho una certa esperienza perché ho lavorato parecchio nei dipartimenti universitari come borsista, dottorato di ricerca. La realtà è peggiore. In Italia molti professori sono in pensione, però mantengono i loro spazi proprio fisicamente, i loro uffici, le loro poltrone, le loro scrivanie, computer e quant'altro, e continuano con i direttori dei dipartimenti compiacenti a esercitare sia parzialmente il loro lavoro, ma soprattutto la loro influenza, così chiamiamola, politica, per quello che può valere nell'università, e il loro carisma da baroni che tanto tutti lamentiamo nell'università italiana. Quindi direi che quel dato del 25% è molto ottimistico. La ringrazio dell'osservazione. Io chiederei proprio al professor Settis, che l'università la vive, se è vera questa analisi secondo cui i baroni restano a fare il loro mestiere di baroni anche se sono poi pensionati. Certo, non è il 100%, ma ce ne sono molti, l'osservazione è giusta. Vorrei però mitigarla, o per meglio dire correggerla, con un'altra osservazione. Negli Stati Uniti, dove per l'appunto invece gli ultra sessantenni sono soltanto all'8% di fronte al nostro 25%, negli Stati Uniti non esiste limite di età, cioè negli Stati Uniti un professore può restare nel suo dipartimento ufficialmente insegnando, facendo il direttore del dipartimento eccetera, anche fino a 100 anni se ha il cervello, le energie, la forza di farlo e se il dipartimento vuole, perché lì il sistema dei controlli incrociati è tale, dei controlli di qualità è tale che restano quei professori che anche magari a 80 anni mantengono grande freschezza di mente e grande capacità di dirigere la ricerca altrui e di fare la propria, mentre in Italia tutto è secondo automatismi, per cui è perfettamente possibile che un professore vada in pensione a 70 anni e poi magari si faccia riattribuire un contratto per cui resta fino a 75 anni anche se non produce ricerca. Questo è la vera differenza, non è tanto nell'età ma nel meccanismo di controllo della qualità. Grazie, siamo con Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, grande esperto dei temi universitari. Stiamo parlando di università, di riforma, dei problemi tanti e delle prospettive, speriamo positive, che può avere l'università italiana. Elena da Brescia, buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno professore. Ecco, effettivamente la qualità determina il valore di un'università, proprio la qualità degli insegnanti e dell'insieme. Io mi riferisco alla Scuola Superiore di Fisica di Trieste, di cui non sento mai parlare. So che è una, chiamiamola così, eccellenza in Italia. Non mi sembra che scioprino, che vorrei capire perché non se ne parla mai. Quando Margherita Ackermann, che insegnava lì, forse non insegna più da allora, io non sento, ma si parlava dell'Ackermann, non di Trieste, non della Scuola Superiore di Fisica, che è veramente un enclave proprio. La ringrazio, ma indubbiamente in Italia spesso le cose buone non fanno notizia, quello che va bene non fa notizia, è un po' siamo un po' tutti noi, anche giornalisti, vittime un po' della cronaca, del fatto clamoroso di cui si parla. Noi cerchiamo di andare anche un po' di là, andare a cercare anche le cose positive. Professor Settis. Ma io trovo questo un'osservazione molto giusta. La Sissa di Trieste è una delle migliori istituzioni universitarie italiane. Devo dire che noi abbiamo anche voglia di farci del male, perché quando si citano, e questo accade molto spesso sui giornali, le famose statistiche di Shanghai Rating, che mette in lista le università a seconda del loro di quanti successi nella ricerca hanno, si citano di solito le statistiche che prescindono dalla dimensione delle università, e quindi l'Italia precipita nei posti dal 100 in giù. Invece, se si fanno nel modo giusto, cioè in relazione alle dimensioni degli atenei, come è giusto, perché è chiaro che un'università con 50 professori non può avere lo stesso numero di pubblicazioni di un'università con 5.000 professori, questo lo capiscono anche i bambini, se si va a vedere secondo la qualità e secondo le dimensioni, on size, come dicono loro, e si può fare sul loro sito, si vede che fra le prime 20 università del mondo ce ne sono due italiane, una è la Scuola Normale, l'altra è la Sissa di Trieste, quindi la qualità c'è, però stranamente questo dato è molto meno ricordato del dato generale, per cui non so, nessuna università italiana è fra le prime 100 del mondo, non è vero, se si fa secondo la size, fra le prime 100 del mondo ce ne sono varie italiane, di cui due sono fra le prime 20. Beh, complimenti per essere tra le prime due. Marcello da Roma. Grazie, cercherò di essere brevissimo. Prima considerazione: il fatto che oggi si possa diventare ricercatore mediamente a 38 anni con una remunerazione mediamente molto bassa potrebbe avere inciso sulla qualità dei reclutati e dei reclutandi. Altra osservazione. Una procedura semplicissima per recuperare delle risorse per l'università italiana potrebbe, anzi dovrebbe essere quella di chiudere le sedi inutili. In Italia abbiamo 112 città nelle quali esistono mediamente oltre 300 sedi. Roma c'ha Rieti, Civitavecchia, Pomezia, Latina, Bologna c'ha 5 sottosedi, esistono università minori delle quali non faccio il nome, ma che sono molto spesso diffuse nel sud, che sono inutili e sono servite solo ai professori per fare carriera. Altra osservazione, quindi chiudendo queste si recuperano risorse. Altra osservazione: mi risulta che su 60.000 docenti, quanti siamo in Italia, ci siano circa 60.000 nell'ambito del personale tecnico amministrativo. Io credo che tutte queste cose abbiano contribuito al disastro. Di certo i professori hanno delle responsabilità immense. Chi parla ha una notevole esperienza, io ho 63 anni, faccio parte di organi istituzionali, purtroppo i professori non sanno gestire, sono stati chiamati a gestire, hanno tradito ciò che Ruberti consapevolmente o inconsapevolmente aveva regalato. La ringrazio, ha messo sul tappeto molti problemi e il tempo purtroppo è molto poco. Professor Settis, io vorrei magari stare sul tema anche delle sedi molto piccole, proliferazione delle sedi. L'università in Italia sta diventando o è diventata quasi un dopo liceo più che un'università, forse intervenire anche su questo fronte dovrebbe essere utile. Sì, questo secondo me è assolutamente indispensabile. Ci sono a quel che pare ben 380 sedi decentrate delle 80 università italiane. Questo è assolutamente sbagliato. Moltissime di queste sedi sono semplicemente un modo per riutilizzare, per riciclare vecchie caserme abbandonate o vecchie scuole medie fatiscenti. Queste andrebbero veramente chiuse e andrebbe fatto un controllo di qualità. Io credo che la grande maggioranza di queste cose andrebbe chiuse e le università che lo hanno fatto andrebbero scoraggiate dal farlo nel futuro. Questo è assolutamente giusto e provocherebbe un grosso risparmio. Quanto all'età dei ricercatori, che si diventi ricercatore a 38 anni è veramente perverso, non si capisce per quale ragione una persona di 38 anni, ma anche di 32, che può andare in cattedra in prima fascia a Harvard, a Parigi, a Oxford, eccetera, eccetera, a Berlino, debba invece fare il ricercatore in Italia e poi fare la trafila per andare in cattedra, non so, a 50 anni o qualcosa di più. Ricordiamoci che in Italia le cose non andavano così. Quando io ero molto più giovane, ma anche l'ascoltatore che ha parlato prima, che ha più o meno la mia età, quando eravamo molto più giovani, era possibilissimo andare in cattedra a 35 anni. Negli anni 60 e nei primi anni 70 era quella l'età media, 35-38 anni si andava in cattedra. Poi la cosa è cresciuta costantemente finché ora si arriva ai 55-56 anni per andare in prima fascia mediamente. Questo è veramente perverso e allontana l'Italia dal resto del mondo. Grazie Stefano da Udine, è rapido perché siamo in chiusura. Prego. Grazie. Io volevo volevo anche ritornare sull'argomento dell'età media e della composizione del corpo docente, per ricordare anche un fatto abbastanza così poco felice. Quando io ero studente universitario 15 anni fa, ci veniva sempre detto che era molto difficile diventare ricercatore perché i concorsi erano centralizzati, bisognava diciamo avere qualche conoscenza per riuscire a vincere un concorso fatto a Roma, e quando la legge cambiò tutti i professori ci dissero: adesso i concorsi sono locali, ci sarà più spazio per i giovani, si uscirà da logiche clientelari e si privilegerà il merito. Ebbene, quando questo accade, per 12 anni, nella regione in cui io ho studiato, in cui ci sono vari atenei, non ci sono stati assolutamente concorsi per ricercatore nel settore scientifico disciplinare di cui io facevo afferenza, perché tutti i concorsi furono fatti per promuovere ricercatori ad associati e associati ad ordinari, creando questa situazione un po' atipica nel resto del mondo, in cui i dipartimenti hanno ad esempio 10 professori associati, 12 professori ordinari e uno o due ricercatori. Grazie mille, grazie per questa testimonianza, forse anche quanto dicevamo proprio all'inizio della trasmissione, in cui c'è stata una politica di stop and go sull'università. Esatto. Per concludere, professor Settis, come possiamo guardare ai prossimi passi? Vogliamo avere fiducia che dopo questi passi positivi, ma limitati, si possa avere una coscienza che l'università deve essere la priorità del Paese? Io spero che si capisca che l'università non è un lusso, ma che l'università è un investimento, che è assolutamente necessario, che non esiste progresso, non esiste innovazione, dunque non esiste un futuro, un futuro di occupazione, di lavoro per i giovani senza l'università e la ricerca. Troppo invece si sta insistendo, e questo è il difetto di quello che è stato fatto negli ultimi mesi: prima si sono fatti i tagli e poi si ragiona sui tagli, invece bisognava prima ragionare sull'università e poi fare i tagli, ma ormai i tagli ci sono, cerchiamo di fare di necessità virtù. E io aspetto con molto interesse le linee guida che il ministro Gelmini ha annunciato, ma spero anche che si capisca che l'università e ricerca non sono un optional, ma sono un investimento sul futuro e sulle nuove generazioni. Se si capirà questo, allora non ci limiteremo a tagliare, ma cominceremo a ragionare. Spero che sia giunto il momento di farlo. Ma speriamo tutti che sia giunto il momento di farlo. L'Italia è un grande paese, deve avere grandi risorse anche per puntare sulla vera risorsa del paese, che sono i giovani. Io ringrazio il professor Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, con cui abbiamo parlato di università e dei problemi della stessa. Ringrazio Carmelo Larricella in regia, ringrazio quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento per domani.